9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Ed eccoci qua, sempre con i Doors, anche questa mattina, in questo giovedì 12 di gennaio, per ricordare che anche all'indomani, questo è il mio giudizio, dell'incontro tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il Presidente del Consiglio Mario Monti, il mio giudizio è quanto i giornali oggi scrivono sulle presunte, vedremo se confermate, concessioni al ritmo più lasco, più lento di rientro del debito pubblico, con un anno in più guadagnato e quindi con un accordo che inizia a mordere, per così dire, in paesi che sono 60 punti oltre la media del 60% del debito pubblico sul PIL e che devono rientrare di un ventesimo ogni anno, con una disciplina che comincerebbe dal 2014 al 2013, a mia opinione non cambieranno in nulla la sostanza di ciò che i mercati pensano della scarsa sostenibilità del debito pubblico italiano con questa crescita. Vedremo oggi, con le aste che si tengono in Italia e in Spagna, quale sarà il giudizio del mercato. Prima di arrivare all'argomento della puntata, ve l'ho preannunciata, è l'indice della libertà economica che esce oggi come ogni anno sul Wall Street Journal ed è curato per il 12° anno consecutivo della Heritage Foundation. Una rapidissima scorsa alla stampa internazionale per vedere che cosa mi ha più colpito in ordine all'eurocrisi. Direi che dalla Germania ho dato un po' l'occhio ai giornali tedeschi. Perché? Perché ieri abbiamo avuto la stima della crescita 2011 per la Germania al 3%, però abbiamo anche avuto Deutsche Bank che preannuncia un quarto trimestre tedesco di ingresso nella contrazione, con un meno 0,2, meno 0,3%, e il Financial Times Deutschland stamattina riporta e conferma le opinioni di Deutsche Bank. Financial Times ha una stima di meno 0,25 nel quarto trimestre per la Germania, e il Financial Times Deutschland presenta questa stima di ultimo trimestre di contrazione tedesca con pareri di economisti che sono divisi. La minoranza, a dire la verità, di coloro che sono interpellati sul Financial Times Deutschland ritengono che questo quarto trimestre con il segno meno preannunci anche in Germania una recessione che invece è più o meno certa per tutta la fascia latina della euro area. Alcuni pensano solo che sia una contrazione di un trimestre che registra la diminuzione degli ordinativi internazionali. Il deficit pubblico tedesco nel 2011 è di pochissimo superiore all'1% di PIL, il debito sta all'81,7% di PIL. Sul Bild invece, quindi già molto popolare con milioni di lettori, Jan Schäfer ha un'opinione radicalmente più pessimista rispetto all'impostazione che dà il Financial Times Deutschland sul dato tedesco, perché Jan Schäfer pubblica un editoriale in cui dice: guardate che la Germania non può pensare di scampare dalla contrazione di tutta l'area euro, non illudetevi a chi dice che questo trimestre col segno meno sia destinato a non essere seguito anche in Germania da segni meno, sia pure molto meno rilevanti di quelli che riguardano paesi come l'Italia. Non ho trovato grandi commenti editoriali sul seguito della visita di Monti niente di paragonabile, voglio dire, alla fotografia che campeggiava ieri in prima pagina del Premier Italiano su Die Welt, per capirci, con il colloquio in cui si diceva l'Italia non è più, l'Europa non deve più temere che l'Italia sia l'infezione, l'agente infettivo dell'Europa. Molto sulla stampa tedesca, sulla crisi del presidente Christian Wolff. Frankfurter Allgemeine Zeitung ha un pezzo in prima pagina in cui documenta che è in caduta libera nella CDU di Angela Merkel il sostegno a Wolf, e quindi Wolf si avvierebbe alla porta, e l'ennesimo concorrente interno più giovane di Angela Merkel che scivola sul signore buccia di banana, per così dire. Quanto alle grandi firme quotidiane, diciamo così, dei commentatori dell'Eurocrisi, su Spiegel Online Wolfgang Münchau spara a zero. Io sono modestissimamente in piccolo d'accordo con lui sull'idea della Tobin Tax europea, dicendo che Nicola Sarkozy e Angela Merkel possono stare sicuri solo di una cosa con la Tobin Tax fatta così, cioè del loro flop. E mi fermo qui, anche perché mi è venuto da ridere invece al fatto che, per esempio, il Financial Times fa finta di stupirsi oggi con un ampio articolo intorno a Credit Suisse, che viene dipinta come una banca particolarmente attiva e particolarmente piena di prodotti e servizi che offrono a coloro che vogliono fare trading la possibilità di aggirare i vincoli, anzi i divieti, alla vendita, allo scoperto a breve. E devo dirvi che a volte la grande stampa, come anche la stampa italiana, mi fa morire dalle risate, perché evidentemente il Financial Times deve avere un motivo per sparare a zero contro Credit Suisse, che non è questo, perché tutti i giorni in tutte le piattaforme di trading si spiega pianamente come si fa ad aggirare il divieto di vendita a breve, e il Sole 24 Ore stesso domenica aveva un ampissimo articolo in cui spiegava come i divieti di vendita a breve sono delle grida manzoniane, e i divieti di vendita allo scoperto, voglio dire, sono stati con certezza aggirati anche nell'andamento, per esempio, dei diritti alle opzioni, che hanno avuto tutto l'effetto che hanno avuto nei primi due giorni di quotazione in borsa, e hanno portato a far perdere decine e decine di punti a Unicredit. Allora, andiamo al punto del giorno, perché stiamo aspettando i provvedimenti che vengono annunciati anche oggi dal Sole 24 Ore, da Repubblica, dal Corriere della Sera, di liberalizzazione e di apertura del mercato nel nostro paese. Trovate riccamente sui giornali, su commercio, notai, professione, taxi, banche, assicurazioni, carburanti, farmacia, ferrovie, autostrade, servizi pubblici locali e lavoro. Oramai le indicazioni concrete, per quanto la Presidenza del Consiglio smentisca queste anticipazioni, ma sono convergenti e sono oramai in iniziano a essere dettagliate. E in attesa di questo, oggi parliamo dell'indice delle libertà economiche curato dalla Heritage Foundation, che cosa fa? Ha 10 criteri da parecchi anni, attraverso i quali misura, con un indicatore da 0 a 100, naturalmente più elevato il punteggio, migliore è la posizione del paese, grado di libertà economica di un sistema economico nazionale. Quali sono questi 10 criteri? I 10 criteri sono: primo, il rispetto dei diritti di proprietà; secondo, la libertà dalla corruzione, quindi quanto pesa la corruzione nell'economia pubblica e privata di un paese; e il terzo criterio è la libertà fiscale, quindi quanto pesante e oppressivo è il sistema tributario e contributivo. Poi l'indicatore successivo è la spesa pubblica, quanto è sul PIL e come viene esercitata. Il criterio successivo è la libertà d'impresa, poi la libertà del lavoro, della flessibilità e libertà del mercato del lavoro, poi la libertà delle politiche monetarie, quindi quanto elevato è il grado di autonomia e indipendenza rispetto alla politica, la libertà commerciale, significa quanto elevati e penetranti è il sistema dei dazi alle frontiere, oltre che quello interno, la libertà di investimento e infine la libertà del sistema finanziario. Questi 10 criteri allineano una graduatoria mondiale che comprende praticamente tutti i paesi del mondo, 179 paesi, non sono messi in graduatoria solo l'Afghanistan, l'Iraq, la Somalia e il Sudan, quindi questi sono 4 paesi falliti, e in ragione invece della sua piccolezza è Liechtenstein. E qual è la posizione dell'Italia in questa graduatoria? molti sono contrari a queste graduatorie perché dicono che naturalmente non tengono conto di tanti altri fattori, le respingono e così via. Io credo invece che siano molto utili perché consentono di avere una fotografia che fa capire in quale parte del mondo ci si sta aprendo alla libertà economica che consente più crescita e più benessere, quali altre parti del mondo restano chiuse oppure stanno scendendo, e consentono anche di capire naturalmente ogni anno in che posizione sta l'Italia. Ecco, l'Italia sta in una posizione assolutamente non onorevole, perché su il totale dei 179 paesi censiti e messi in fila in questo benchmark internazionale, sta al 92esimo posto su 179, e sta sotto una fascia di 60 punti che è la fascia dei paesi che sono relativamente poco liberi. Il nostro punteggio è di 58,8 quest'anno al 92esimo posto. Per capirci, i primi 5 paesi in graduatoria, che sono Hong Kong, Singapore, Australia, Nuova Zelanda e Svizzera, stanno tutti abbondantemente sotto gli 80 punti, mentre noi siamo a 58,8. Vi faccio paragoni solo per capire, perché io vi dico sempre viva la Nuova Zelanda e molti ascoltatori dicono che la mia mania di dire che la Nuova Zelanda è un paese di riferimento è un pochino naif. Allora, andiamo a paragonare, prima di chiedere ai nostri ospiti di commentare questa graduatoria e che cosa si aspettano dalle liberalizzazioni del governo e anche tanti altri macrofattori che sono rivelati da questa graduatoria, perché c'è una parte del mondo che si sta chiudendo alla libertà ed è quella avanzata per via dell'intervento dei governi della crisi, c'è un'altra parte che invece va come un treno meglio di noi. Vi paragono le 10 voci tra Italia e Nuova Zelanda, per capirci, e per capire quanto ci resta da fare per migliorare significativamente la nostra posizione. Se andiamo paragonare per esempio l'efficacia e la libertà nella tutela dei diritti di proprietà, noi abbiamo 50 punti, la Nuova Zelanda ne ha 95 di punti. Se poi pesiamo la corruzione, ecco, noi siamo oppressi dalla corruzione, abbiamo solo 39 punti su 100, mentre la Nuova Zelanda di punti ne ha 93. Poi procediamo con la libertà fiscale. Ecco, la Nuova Zelanda ha 71,6 punti su 100, noi ne abbiamo 55. Poi la spesa pubblica, noi abbiamo 19,4 punti, cioè una roba veramente, ecco, no, non voglio dire che cosa. E la Nuova Zelanda 45. È comunque un paese occidentale, quindi la spesa pubblica è pesante, meno pesante che da noi e migliore qualitativamente che da noi. Poi la libertà d'impresa, Nuova Zelanda 99,9 su 100, noi come libertà d'impresa abbiamo invece 77,4. Poi mercato del lavoro, noi abbiamo 43 punti su 100, non andiamo oltre 43 punti su 100, la Nuova Zelanda 89,9. La politica monetaria 85,2 la Nuova Zelanda, e nel caso italiano, come tutti gli appartenenti all'euroarea, noi abbiamo punteggio elevato 82, perché la BCE è significativamente indipendente, anche se la Banca Centrale Neozelandese risponde di quello che fa molto più della BCE, per questo anche su questo terreno la Nuova Zelanda è meglio di noi. Poi libertà di commercio 86,8 punti della Nuova Zelanda, e la libertà di commercio noi battiamo la Nuova Zelanda perché siamo a 87,1. La libertà degli investimenti 75 punti su 100 all'Italia, esattamente come la Nuova Zelanda. Quanto ai mercati finanziari, 80 punti per la Nuova Zelanda e 60 punti per l'Italia. Ecco, vi avrò un po' annoiato scegliendo un paragone con un paese che sta insieme all'Australia significativamente meglio di noi, ma è per capire che vi sono parti dell'Occidente che costituiscono insospettabili punti di riferimento, almeno al mio modello. Però oggi con questa graduatoria comparata di tanti fattori vi ho fatto toccare con mano perché ricorro spesso a questa immagine. Ecco, vediamo ora di commentare insieme ai nostri ospiti Che cosa li colpisce di questa graduatoria quest'anno e che cosa essa ci dice rispetto alle tante resistenze che già si manifestano rispetto ai provvedimenti che vengono anticipati oramai dai giornali in arrivo con la liberalizzazione. Abbiamo con noi per cominciare Antonio Pulito, editorialista del Corriere della Sera, che proprio ieri è tornato con un bel editoriale su questi punti. Buongiorno e grazie Antonio Pulito. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Allora, non so se hai avuto tempo di guardare questa graduatoria, ma insomma il fatto che molto resti da fare, ma in generale la reazione a questo genere di graduatorie sia quella di dire vabbè, ma noi siamo un paese che ha le sue caratteristiche, non ci venite a dire l'Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Singapore, la verità è che dai tassisti alle farmacie eccetera eccetera volete solo colpire chi è debole, mentre invece non colpite chi è forte. È un paradosso di un paese che in realtà pensa sempre che il problema sia in casa da altri, o è una questione di mentalità secondo te? Ma io direi più semplicemente che diciamo la lunga disabitudine alla libertà vizia, è sempre così. Ci sono paesi e popoli che sono stati capaci di vivere in regime di privazione della libertà molto a lungo, seppur con qualche eroica dissidenza. E ci abbiamo fatto l'abitudine, la suefazione come una droga, perché la libertà certe volte è anche una pratica faticosa, per esempio la libertà di scelta del consumatore, che è una cosa che oggi valutiamo come estremamente importante, positiva, quasi anche come un tratto caratteristico della democrazia, è una cosa che noi a lungo diciamo non abbiamo avuto. E magari quando l'abbiamo avuta e abbiamo dovuto scegliere tra 4-5 offerte telefoniche o del gas o di un altro fornitore, ci ha infastidito, ci ha scioccato. Cioè vive in un regime protetto dove ognuno diciamo sta nella sua gilda, corporazione, tribù e continua a godere diciamo di quei vantaggi che questo ne trae, soprattutto il vantaggio di non faticare troppo a combattere sul terreno del mercato, della concorrenza e così via, magari anche perdendoci qualcosa dal punto di vista economico in senso stretto, cioè rischiando meno di quanto potrebbe e dovrebbe. Questo mi sembra un tratto tipico della condizione italiana, non solo italiana devo dire, perché dal punto di vista dell'apertura dei mercati anche altri paesi europei, anche per stesso portati a modello per esempio come la Germania, non è che siano a livello della Nuova Zelanda o dell'Australia, ed è questa incrostazione che dobbiamo rompere ed sarà molto difficile. Ah, infatti a conferma piena la Germania sta al 26° posto e ha un indice 71 rispetto, cioè più di 10 punti meno di quelli dell'Australia, 12 punti meno di quelli dell'Australia e della Nuova Zelanda. No, l'Europa continentale, Francia, Germania sta meglio dell'Italia, ma insomma significativamente sono chiusi pure loro al mercato. Posso chiederti, ti aspetti che questa volta le liberalizzazioni di Monti riescano a evitare quello che è stato un po' il difetto, l'insuccesso, la retromarcia delle lenzuolate di Bersani? Ma non lo so, perché non è che il governo Monti agisce nel vuoto pneumatico, insomma, nella società italiana, le forze che la organizzano, i poteri intermedi che la strutturano sono sempre quelli di allora, e quindi ci sarà un continuo lavorio di negoziato, di trattativa, di pressione. Avremo anche delle forme vere e proprie di protesta, già alcune sono state annunciate. Ora è vero solo una cosa, che Monti su questo non può perdere, cioè mentre un politico ha qualcosa di più prezioso della faccia da perdere, cioè i voti, lui no. Monti ha solo la faccia da perdere, e siccome questa è proprio la sua faccia, perché lui è noto nel mondo come Mister Concorrenza, perché questo ha fatto nella Commissione Europea, di questo si intende, questo è capace di fare, lui certamente spingerà fino in fondo, l'ha anche detto, fatto capire che non ha niente da perdere da questo punto di vista, però intorno a lui c'è l'Italia, non è che siamo catapultati all'improvviso in un altro mondo, e quindi no, io la immagino come una lunga, difficile, faticosa battaglia politica e sociale. Sono d'accordo con te, dico anche, io ho questa impressione che se tutto quello che diciamo scriviamo da anni sul lavoro dovesse esitare, finire con una misura che sull'articolo 18 dice che si passa da 15 a 50 o più probabilmente 30 come limite dei dipendenti di tetto di applicazione dell'articolo 18 solo in caso di fusione tra piccole imprese, io mi gratterei la testa, ecco, non so. Guarda, io non aspetto molto di più, perché diciamo il segnale della pre-trattativa è stato molto chiaro, cioè il problema è stato posto, la CGIL l'ha respinto con estrema durezza, quindi è stata invitata a una conversazione riservata e gli è stato detto che il tema diciamo non verrà posto almeno in termini nominali, ecco, si tenterà di fare qualcosa intorno, di danzarci intorno piuttosto che affrontarlo di petto, a me sembra abbastanza scontato. Posso aggiungere una cosa, certo, perché per non dare, diciamo sempre noi nei nostri discorsi, giustamente le categorie, la gente che resiste, individuiamo le loro colpe e le fustigliamo, però è molto interessante che ci sia anche il parametro della spesa pubblica, perché non dobbiamo dimenticare questo, una delle forme, diciamo così, di limitazione della libertà economica è l'eccesso di spesa pubblica. E il problema italiano, da un lato certamente è quello che stiamo dicendo, cioè dell'apertura dei mercati, ma dall'altro è anche quello, della immane mole di spesa pubblica che corrompe il funzionamento, diciamo così, efficace del mercato, che interviene, che lo condiziona. Basti pensare a quante imprese italiane, diciamo, dipendono da quello. Quindi quello è un punto da non dimenticare, perché diciamo al commerciante, al tassista, all'avvocato, bisogna sapergli dire anche che contemporaneamente si sta mettendo le mani su questo. Non c'è dubbio, questo 19,4 che noi abbiamo di spesa pubblica, il punteggio più basso tra tutti i 10, è un punteggio che ci spinge veramente nella fascia degli ultimi 20 paesi al mondo, cioè per quantità e per qualità. Noi siamo tra i peggiori 20 su 180 di tutto il mondo. È una roba. Io non so di questo, però, quanto riusciremo a renderne consapevoli davvero gli italiani. Mi pare che su questo gli italiani pensano sempre che il problema della spesa pubblica è che attraverso la spesa pubblica si ottiene ciò che non si riesce a ottenere da soli, per così dire. Quindi tu hai speranza. Sì, non solo, ma è passata anche l'idea, diciamo, colpevolmente, forse anche sui giornali, che diciamo ai fini della crescita ci vuole un po' di spesa pubblica, perché questo appunto, ormai è moneta corrente, no? Quindi ci sono tutta una serie di, vabbè, insomma, comunque è un'opera lunga, lo sappiamo, però quello che vuoi, insomma, certamente abbiamo ripreso a parlarne, ecco, almeno questo, e da questo punto ha ripreso un dibattito pubblico su queste cose. E infatti da questo punto di vista io continuo a dire che questo governo era necessario anche per questo. Io ringrazio Antonio Pulito e andiamo in pubblicità. A chi mi chiede dove trovano questi dati, oggi li trovate sul Wall Street Journal e rinvii sull'edizione online del Wall Street Journal, sul sito della Heritage Foundation, li troverete tra poco anche sul sito dell'Istituto Bruno Leoni, che per l'Italia insieme alla Heritage edita il rapporto. L'Italia è, secondo questi 10 parametri su cui di anno in anno vengono comparati i diversi paesi, a un non troppo onorevole 92esimo posto. In generale tutti i paesi appartenenti al blocco avanzato, per via della crescita di spesa pubblica di fronte alla crisi, perdono punti. Paesi asiatici, ma non solo, anche molti paesi della fascia subsahariana e della parte sud dell'Africa guadagnano molti punti. Oggi il commento che Edwin Ferner, il presidente della Heritage Foundation, fa, i dati complessivi che vedono questa specie di passaggio della torcia, dell'apertura e della libertà dei mercati a paesi che si avviano a essere emersi, non più emergenti, rispetto a paesi avanzati che invece sono piegati dagli effetti della crisi e dalla risposta che lo Stato dà, quindi estendendo di nuovo la sua fascia di intervento, dice che è un po' difficile, trovate sul vostro giornale anche questo, il commento di Edwin Ferner, è un po' difficile capire se questo passaggio della torcia è una questione di lungo periodo o se è il segno di questi anni di crisi difficile. Quello che è certo però è che è una prospettiva storica consolidata di questi anni, che è un numero molto crescente di paesi stia migliorando significativamente la loro posizione complessiva, l'apertura complessiva e la libertà nella tutela della proprietà, come nel commercio, come nel sistema finanziario, e questa prospettiva di lungo periodo è in realtà poi l'asse portante su cui scommettere per più crescita, più benessere e più soluzioni ai problemi del maggiore e migliore sviluppo anche nel segno complessivo del pianeta. Noi chinati sulla nostra crisi smarriamo che nella prospettiva generale ci sono segni molto molto incoraggianti in realtà. Certo, questa 92esima posizione italiana, e abbiamo visto che sui 10 fattori quello scandalosamente basso che dovrebbe interrogarci è esattamente quello che riguarda qualità e quantità della spesa pubblica, 19 punti su 100 ci dovrebbe interrogare. Continuiamo a commentare questi spunti in attesa delle liberalizzazioni promesse, anticipate oggi dai giornali, promesse dal governo Monti, con Stefano Fassina, che è il responsabile economico del PD. Buongiorno e grazie Fassina. Buongiorno e grazie a voi. E Alberto Mingardi, che è direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, parte in causa per la parte italiana appunto di questo report, di questo benchmark. Grazie, buongiorno a Mingardi. Buongiorno. Fassina, commentavamo prima con Polito rispetto a questi indicatori e a questo paragone con il resto del mondo, ciò che i giornali ormai anticipano con una certa precisione, anche se Palazzo Chigi giustamente invita a andarci cauti rispetto a ciò che leggiamo. La domanda che le faccio è: si aspetta questa volta dal governo Monti, come pensava Polito prima, che si debba per forza fare più sul serio, per la natura non politica del governo? Diceva Polito, in realtà Monti su Mister Concorrenza c'ha la sua faccia, i politici hanno gli interessi, è chiaro che possono essere più transigenti, Monti più difficile. E la domanda che le faccio è se si aspetta questo, e poi, siccome una delle reazioni che viene anche ora che andiamo in onda, tassisti ci dicono, i tassisti e i farmacisti ci dicono, ve la prendete con noi, ma in realtà gli interessi veri che hanno più impatto per la crescita sono quelli dell'energia, sono quelli delle banche e così via. Ecco, nel mix, lei si aspetta una risposta anche a ciò che impatta di più per migliorare la nostra posizione nelle graduatorie internazionali, cioè appunto trasporto locale, energia, eccetera? Qual è la sua opinione, il suo mood? Ma sì, mi aspetto un intervento che aggredisca anche i nodi che hanno più rilievo, che sono quelli che lei prima ricordava. L'energia, abbiamo un problema straordinario di costi dell'energia dovuto alla regolazione, dovuto agli incentivi che sono stati dati in modo non particolarmente efficiente per quanto riguarda le rinnovabili, e alla fine paghiamo un prezzo del 30% superiore alle medie europee, quindi un handicap straordinario sulla competitività delle nostre imprese e sul potere d'acquisto dei consumatori. Ma dalle anticipazioni che leggiamo sui giornali mi pare ci sia un'importante riforma nella distribuzione dei carburanti, che va nella direzione che l'ex ministro Bersani aveva individuato e ha proposto in realtà sin dall'inizio di questa legislatura. Mi pare che ci sia anche un intervento sulle banche, un intervento sulle assicurazioni. Quindi mi sembra che almeno a quelle che sono le anticipazioni ci sia la volontà di non trovare capri espiatori, interventi simbolici contro questo o contro quello, ma l'obiettivo serio di un intervento che affronta tutti i nodi, a cominciare da quelli principali. Quindi in generale, poi ci sono su punti specifici, vedremo, abbiamo qualche riserva, ma in generale mi pare un pacchetto equilibrato, un pacchetto che non deve apparire, non deve essere punitivo nei confronti di nessuno, ma deve mettere al centro l'interesse generale, che poi coincide anche con un interesse di medio-lungo periodo dei soggetti che certamente nell'immediato subiranno dei contraccolpi. Senta, se andiamo a uno dei punti più delicati, mercato del lavoro, l'anticipazione lì è che il tema insomma, più rovente, quello poco anche più simbolico rispetto alla sostanza vera dei problemi del mercato del lavoro italiano. Cioè l'articolo 18 subirebbe un innalzamento di soglia dagli attuali 15 semplicemente a 30 o a 50, più probabilmente solo a 30, attraverso fusioni di imprese, quindi una norma di incentivo alla fusione delle imprese piccole. E per il resto però, siccome a me pare che la sostanza del grande problema sia altrove, sulla riforma degli ammortizzatori, da quello che le anticipazioni di cui sono molto più vaghe, se dovesse dire la sua parte politica ha capito dove stiamo andando sulla riforma degli ammortizzatori sociali, oppure no? Cioè io non vorrei che, se ci dovessimo ridurre a questa norma sull'articolo 18 e all'apprendistato di 3 anni, che comunque, se è collegato a tutele più flessibili, è un passo avanti, però mi chiedo se poi tutte le chiacchiere che abbiamo speso per anni, per mesi, eccetera, eccetera, su questo siano soddisfatte. Cioè, ieri Monti si è presentato alla Merkel puntando molto su questa apertura del mercato del lavoro. Io non ho ancora capito in che cosa consista. E voi cosa vi aspettate su questo? Ma noi ci aspettiamo una discussione, delle proposte fondate su un'analisi reale. Come forse lei sa, di sottoscritto, ma diciamo la posizione del Partito Democratico è che l'articolo 18 non ha nulla a che vedere con la crescita, non ha nulla a che vedere con la precarietà, quindi ci aspettiamo un intervento che migliori i canali d'accesso, in particolare dei giovani, ma anche delle categorie più deboli al mercato del lavoro, quindi con un canale che abbia un contenuto formativo, oneri sociali più bassi all'inizio, preveda incentivi alla stabilizzazione, quindi questo come per quanto riguarda l'ingresso, poi una riforma degli ammortizzatori sociali che tenga conto di quanto è cambiato il mercato del lavoro. E che certamente non possiamo andare avanti con le casse in deroga, con la cassa integrazione ordinaria, straordinaria e mobilità, quindi un intervento che introduca un ammortizzatore universale, un'indennità di disoccupazione universale che diciamo di natura assicurativa e che consenta quindi a tutti i lavoratori e lavoratrici che perdono un lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale di avere un sostegno al reddito con un contenuto anche formativo e con una riforma dei servizi per l'impiego, con coinvolgimento anche di operatori privati del terzo settore, che migliori le possibilità di incontro tra domanda ed offerta. Senta, le due domande per far capire meglio a chi è a casa, al di là della tecnica, su questo punto che le faccio è ma voi sareste favorevoli a questa norma di innalzamento fino a 30 addetti in caso di fusioni? E però sulla copertura integrale, che è con una forma di, si può chiamare in tanti modi, però una forma di sostegno a copertura integrale, che lei ha detto e indica come una delle proposte fondamentali invece per cambiare poi il mercato del lavoro e la tutela generale, lì la questione è chi deve pagare di più, perché è difficile immaginare. Oppure voi immaginate un sistema che costi come le risorse oggi affidate alle casse in deroga e semplicemente reindirizzato, ma nel caso in cui dovesse costare di più, è fiscalità generale, imprese, lavoro, chi ci mette i soldi in più, per capirci? Questo è il punto fondamentale. Ci sono, c'è una razionalizzazione da fare, non c'è dubbio, perché non tutto quello che c'è può essere mantenuto così com'è. Ci sono degli aspetti che non funzionano. Ad esempio c'è un uso anche distorto della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, quindi qualche risparmio di lì può venire. Credo poi ci debba essere per le imprese che oggi non hanno questo tipo di ammortizzatore, cioè per i dipendenti delle imprese che oggi non hanno questo tipo di ammortizzatore, ci deve essere quando dicevo prima, uno strumento di carattere assicurativo, ci deve essere quindi un contributo a carico dell'impresa che però non può essere aggiuntivo a quello che c'è. Io credo che questa soluzione debba essere iscritta in un quadro in cui si riducono le imposte per le imprese, una sorta di compensazione in modo che non aumenti il costo del lavoro per l'impresa e che però sposti una parte di questo costo sul versante dell'assicurazione contro la disoccupazione, in modo che c'è anche un incentivo all'impresa di usare questo ammortizzatore e quindi di licenziare i lavoratori quando effettivamente necessario, non così a piacere. Ci vuole una compensazione, oggi non siamo nelle condizioni di poter scaricare sull'impresa un onere aggiuntivo, per questo noi insistiamo che questo pezzo sia iscritto in una riforma dell'imposizione sull'impresa che vada a riduzione del carico complessivo. Poi c'è da aggiungere un punto importante, noi siamo in una fase di disoccupazione patologica, nessun sistema di ammortizzatori può resistere e può assorbire una disoccupazione che è elevata e che diventa quasi strutturalmente di lungo periodo, siamo in una fase eccezionale e quindi il sistema che disegniamo dovrebbe essere tarato per una fase ordinaria certo. E la fase eccezionale credo debba essere assistita da un intervento della fiscalità generale, perché è evidente che se rimangono tassi così elevati e disoccupazione di lunga durata, non credo ci sia sistema al mondo che riesce a gestirla in un processo, come dire, ordinario. Mingardi, molti ascoltatori dicono naturalmente questo vostro criterio liberista di Giannino, dei Mingardi, della Heritage Foundation, in realtà sono situazioni non comparabili. Perché secondo lei invece bisogna difendere benchmark come questo? E che cosa le indicano quest'anno la graduatoria? Beh, per anni noi ci siamo sentiti dire che questo genere di classifiche in qualche maniera non fotografava bene la realtà del mondo. Evidentemente queste classifiche non misurano la prosperità di un paese, ma sono molto importanti per capire quali paesi si stanno attrezzando per diventare più ricchi domani. E questa è una buona notizia, insomma, alla fine sapere che comunque sia anche quest'anno in cui il dato complessivo della libertà economica del mondo un po' peggiora, ci sono 75 paesi che sono più economicamente liberi dell'anno scorso, è una buona notizia per tutti. La cosa che trovo più interessante, in ragione anche del fatto che è diventato più chiaro anche ai decisori politici, soprattutto nei paesi emergenti, che aprire alla libertà economica, che abbassare le barriere all'ingresso, che cercare di garantire un quadro normativo e giuridico certo e affidabile, serve ad attrarre investimenti e a fare crescita, è la situazione dei paesi africani. Quest'anno per la prima volta uno dei 10 paesi più liberi al mondo è africano, è Mauritius, e se noi andiamo a vedere i 10 paesi più economicamente liberi dell'Africa, che sono Mauritius, il Botswana, il Ruanda, Capo Verde, il Sudafrica, il Madagascar, la Namibia, l'Uganda, il Ghana e il Burkina Faso, tutti questi 10 paesi hanno un punteggio complessivo migliore di quello dell'Italia, anche il Burkina Faso, che è l'ultimo di questa graduatoria. Insomma, questa cosa in qualche maniera deve farci pensare un pochettino, anche perché tu giustamente ricordavi prima che come spesa pubblica siamo il 164esimo paese al mondo su 184, ma se noi guardiamo la libertà fiscale siamo il 169esimo paese al mondo su 184, e se guardiamo alla libertà del lavoro, cioè alle rigidità del mercato del lavoro e alla fine della fiera all'articolo 18 e al mondo che lo circonda, siamo il 153esimo paese al mondo. Insomma, io sono molto contento che ci siano 150 paesi più liberi di noi, nei quali la gente sta un po' peggio del solito e che possono sperare nei prossimi anni di crescere, di diventare più prosperi, di godere delle fortune di cui noi abbiamo goduto negli scorsi 50 anni. Mi spiace un pochettino che queste classifiche da 10 anni fotografino quello che noi stiamo vivendo adesso, cioè un declino che ci sembra inarrestabile e che è stato in qualche maniera previsto dal declino della libertà economica in Italia, mentre nel resto del mondo la libertà economica migliorava e cresceva. Speranze non molte neanche da questo governo, Mingardi? Ma io credo che ci sia un solo atteggiamento prudente rispetto alla politica italiana, chiunque sia il governo, ed è non aspettarsi nulla, così non si viene mai delusi. Sono completamente d'accordo con le conclusioni di Alberto Mingardi. Trovate l'indice della libertà economica su Wall Street Journal di oggi, sui siti della Heritage Foundation e occhio anche al IBL Istituto Bruno Leoni. Grazie a tutti, appuntamento a domani. Radio 24, la passione si sente. Bye.